Gianni, chi te lo collega di là per fare, amico? Sei Gianni! Amico, Gianni, che te lo collega a lui, eh? Se lei dici c'è con una aspirina. Ma questa è una aspirina, sì, è per presente. E mo' di Dio. E hai che volessela, mica si fa bene, mi. Gnoglio. Amico, Gianni. Ah, guarda il cazzo. E lui parla così, non hai mai sentito Agnonio? Mi sono toccato di Franco abita, Franco, fai Agnonio. Ehi, quello è Agnonio, abita prima che la mia, mi ma papà non sto tenendo il passato, stava andando alle poste, e che la presa di quando Agnonio ha messo in casa, ma adesso che non fai Agnonio? Capisco. A te, a numero mio chiami. Ah, cioè, mi Aspello! No, c'è il numero di Franco 3, tu non ce l'ho! Sono arrivato, quelli e ti da parte mia, ciao! Allora, mi fate parlare o mi metto la portante? Cosa devo fare? Questa è la portante, sì. Vabbè, mi metto la portante allora, se mi fate parlare, cazzo, sono due ore, break in break, mi fate entrare, bruh! Se non riprende gli anni, no! Allora, riprendete che mi vanno a mangiare, ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao! Vai, nasta lì! C'era qualcuno che voleva entrare, non vanno. Quando viene, ciao ciao! passare due. Ma voi che passano anche che ne mangia tutti. E di lui si è venuto a Roma. Sì. E tu davanti a me non andò a chiamare all'inizio. Ti vuole leggio. Ti andrei che non so come il rispetto del tuo padre. Ti vuole leggio lì, vissuta. Tu non ti dici. E tu senza legge devo seguire io. E tu solo va a fare un gioco a piedi. Va bene. Tappa. Sente bene, no? Ehi, sto ascoltando benissimo qua. Anche perché la salita, se lo metto poi va in saturazione, capito? Sul vicino, siete passati sul tempo adesso. Luca, a te o Roberto. Ciao Luca, anche io adesso non interrompo, devo uscire. Ti sentiamo, ciao di nuovo Luca, Natalino, Franco, Pinaggio e tutti gli amici all'ascolto. Dai, se mai se così ci sentiamo stasera. Ciao di nuovo a tutti e buona giornata. Ciao, ciao Roberto, Prussia. Ciao Roberto, te la riascolta le Prussinine. Gappa gappa, già va bene. Vai Natalino. Franco, vieni tira. Ascolta, ma qualche volta in caserma sei venuto per la Zanussi? Figlia. E allora ti ho conosciuto lì, guarda, ti ho conosciuto lì sul caso. Infatti stavo facendo memoria e poi il coso e resta ma non avete visto della Zanussi. E gli attirerà. Vieni a fare lavori lì dove lavoravi tu praticamente, capito? No, già accendo, sì. Infatti no, il mio dottore ha già conosciuto, non va bene. Abbiamo che conosciamo. No, ma comunque tu sei in caserma, sembra, perché l'ha l'ultima volta. E sono venuto ogni volta in caserma a fare lavori lì. Ma io diciamo che faccio lavori anche lì al comando carabinieri di Stato, finanza e tutte le altre caserme, capito? Sì, avanti, sì, avanti. Non sei contento, così è pure la bella fino. Ascolta, porta, ma non arriva qua a Sassari. Sì, aspetta che te lo... Ma guarda, un attimino, Sandro, vai a fare Claudio Salviero. Ma che c'è ancora? Radio Mattore? No, negativo, negativo. Sandro, prova a fare un passaggio più lungo. Attento, Sandro, a Corteglia di Aiglia, ma ascolti? Se no manco Piacenza arriva qua, non sono di Mantova. Capodanno! Puglia! Allora c'è il tuo appino! Ciao Alessandro, io sono da tutti qua! Già va bene! A Califano, allora c'è ti! Califano mi sta sbarrando tutto il mister, ora ce li ho fatto pagare! Claro. telefoni a oggi. Perché questo qua lo deve mettere in spiego per tirare bene lei. Adesso questo lo metto in macchina. A vedere come va. Sono in macchina. Hai, questa è una brutta vecchia in macchina, capito? Perché io devo capire che... Ma pagavo! Tu sei la tele, basta per il segno. Basta più nessuno. Ok, io so se, io lo so. Se 45, la cosa è con i 10, ok? E su 5. Oh, capito. Pino! Buonasera! Buonasera! cambio. Cosa c'è lì dal cambio? Ah, fa il positivo già. Elicottero. Già, l'elicottero e anche l'aereo. Tu se pici mangaglio. Cosa, classe, vabbè, vuol dire che è a minimo, aspetta che lo metto. Antonet, che Antonet, chi ma veja me la por, de mul, e na veja d'Antonet, e che na vuota cugli, coglio che tu vuoi, che tu no, ce n'è vino, no, tutte bottiglie vuote ci sono pure nel fogliolo. Ci sono tutte le bottiglie vuote, ah! Dimmi, guardi lì. Franco! Bene stai tu, sì? Sì, è lì. Zitto! Ah, molla. Perché Anna mi ha fatto questa domanda? Sento bene. Claudio, non ci sentiamo un po' bene oggi. Ah, io non lo so, Anna. Io non ho bevuto niente. Zitto, tu non hai? E io non ho bevuto niente. Ho bevuto un bicchiere di birra e basta. Lascia parlare qua. Lasciala parlare che ci deve venire dire cosa si è bevuto. Gianni, io non lo so cosa si è bevuto. Certo che non è sano di testa, Beh. Manca qualche rotella oggi. Una rotellina entrato, vecchia merda amore, bacia la bocca che non ha mai baciato. Antonietta si contenta di sposare Francesco. Sì. Ha baciato allo capo e ha detto signorci. La di notte Franceschino bidumbe. Ha baciato allo capo e pariani 33. Appiccita Tamara Purenta? C'è qualcuno che vuole entrare nel canale 30? Appiccita Tamara Purenta? Oppure passiamo al 40, topparpisce Tamara Guanta? Ah, dischi! Oppure passiamo al 40, topparpisce Tamara Guanta, dischi? Che casino, Gianni, le tre, faccio la storia a mia moglie, che sono sano come un pesce. Oh, glielo ho detto io, Anna, che se ne è accorta troppo tardi. Gappa gappa. Oh, io sono... non ho bevuto nulla, un bicchiere di birra anch'io, come Franco e basta. Perché io ci ho bevuto? Un bicchiere di birra, ma Franco e Bu, ci avevamo assieme. Cosa ci ho bevuto? Stavo cercando Gnoni, ok, Bu, non lo trovo. Gnoni! Gnoni, non è vero che sta saltando la minuti. Qui dalle Gnoni. No, Gnonio è Gavino, Gavino Gnonio. E il cugino di Luca, Luca del Mo. Ah, non lo conosco. Che si compra questo microfono? Lo sto vedendo! Cazzo braccio, è un casino di Gesù Vito. Stai zitto! Ho detto che si compra questo microfono! Io mi posso comprare la radio, non il microfono. Il microfono ce l'ho. Te lo compro io, là. Passa la pena a vedere. Claudio, adesso l'ho abbassato. Capito? Ma io al volo, attacco al volo, là. Lo vedi? Ma è adesso che l'ho abbassata? Non è ancora troppo forte, là. Oh, guarda adesso. Adesso già va bene. Ora, adesso va. Ora, adesso te lo faccio ripetere tante volte, qua. Claudio. Ah, quello che ripeteva un bel era quello di Gianni. Questo non rispetto un cazzo, questo è forte, come il radio non lo rispetto. Attento Claudio! Quello Gianni faceva, se tu le dicevi Claudio, lui diceva Claudio, questo lo rispetto un cazzo. Adesso te lo faccio rispettare le parole. No, questo lo rispetto. rispetta l'eco, c'ha la ripetizione dell'eco come quello che ci vuole in macchina, però non rispetta le parole, quello di Gianni rispetta proprio le parole. Se tu dicevi Gianni, lui diceva Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, proprio chiaro chiaro. Ma se questo lo fa, se poi te lo faccio vedere come lo fa. Fammelo vedere, vai. Aspetta, lasciami prendere il cacciavite di un tipo, perché là dietro io ce l'ho chiuso la ripetizione. Questo fa, se questo fa, Claudio, Claudio, Claudio, Claudio, quello sta dicendo. Non so, quello di Gianni proprio ripeteva il nome, chiaro, chiaro, chiaro, ma cos'era già la radio oppure il microfono? Che lui era il Mario, era una sacosa. È bella quella radio, certo, bagaccia tua. Perché sarebbe tutta la casa? Cosa di forza maggiore? C'avevo una cornacchia contro di me, che avevo paura che magari c'era qualcosa, e allora l'ho venuto. Fuori, perché piace un bel. Probabilmente me lo riprenderò. No, l'ho ripreso, perché è l'unica radio che ti ho sentito veramente bene già, capito? Veramente di lusso. Oh, sono le tre, dai, io vado a riposarmi un paio d'ore, ci sentiamo più tardi, signori. Fatemi bene, comunque abbiamo scherzato, abbiamo riso, abbiamo fatto, dai. Però poi mi dite che sono paranoico, che sono qui, che sono là, e invece ridiamo e scherziamo, dai. Ci sentiamo più tardi, fatemi bene, ciao, attenzione Capodanno, riprendi. Sono in macchina, dai, stavo facendo. Cazzo, in macchina, sì, gnogno. Ma apposta una matrice. Un tramite la incue. In cui te la vedo, va bene, alla bene, e aspetta come te chiedete. Ora, ora, adesso Claudio. Claudio. Ripete, però quello di Gianni ripeteva proprio la frase, se io terminavo con ciao Gianni, lui ti diceva ciao Gianni, ciao Gianni, ciao Gianni, ciao Gianni, questo dice invece un cazzo. Ripeteva l'ultima frase che diceva, un bel bella era, un bel bella, cappa cappa, va. Fatemi bene signore che vado a fare la nanna. Va bene dai, fai la nanna qua. Te la riascolta le prossime. Ciao ciao. Ci sentiamo stasera, vai. Tanto c'è del marchio. Ciao ciao. Va, dire a Teresa che arriva in Diana, ciao, guardati per me, ciao ciao. Ciao Claudio, ciao riascolta, ciao.